Il punto di Stefano Folli. Il voto di fiducia alla Camera sulla legge di stabilità dimostra come il Popolo della Libertà sia ormai una costellazione di partiti, ognuno dei quali segue una sua logica. Il grosso, che si riconosce ancora in Alfano, ha votato a sostegno di Monti e del governo, ma la fronda degli assenti e dei voti contrari è in crescita e non si nasconde più. Verrebbe da dire, meno male che la legislatura è finita, perché non si sa cosa potrà accadere d'ora in poi. Di sicuro siamo entrati nel dopo Berlusconi e una parte del vecchio PDL sa che l'unico punto di riferimento è Monti e lo sarà anche all'indomani delle elezioni. Ma d'altra parte insegue un progetto alternativo alla linea del Presidente del Consiglio e alternativo anche alla Germania della Merkel. È un progetto non chiaro, senza un leader, forse senza una vera presa nell'opinione pubblica, però può essere la base di un piccolo partito personale di Berlusconi. Tuttavia è chiaro che una scissione di fatto si sta consumando in queste settimane, con o senza primarie, nella formazione che ha dominato per anni la politica italiana.